Tour, the moving station. Present TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh on TamTam Europe on Radio Tour, the moving station, bringing you the best news and altre cose dalla nostra redazione di Londra. Allora, ogni anno a Pamplona, in Spagna, c'è una grande fiesta che conclude con una corsa di torri, dove corrono anche molte giovani provando di evitare i torri. Ogni anno ci sono tantissimi feriti e a volte muoiono delle persone impalate sui corni o travolti sotto gli zoccoli dei torri. Nel 1989 Walter Becker, metà di Steely Dan, rimane ferito durante questa corsa e per 6 mesi è stato costretto a portare una ginocchiera e una benda sull'occhio. Questo non è l'unico motivo per cui non ha registrato con Donald Fagen per ben 20 anni. I due hanno scritto un romanzo insieme e l'hanno preparato per il cinema. L'anno scorso però hanno deciso di ridedicarsi alla musica ed ecco uscito il nuovo album Two Against Nature. Se ci volete gruppi di ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 11 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Dal TamTam Europe e Fergal Cavanaugh vi lascio con Steely Dan e Cousin Dupree. Ciao, alla prossima. TamTam Europe. Grazie a Fergal, la pillolina data Europe, quindi anche alla nostra, grazie alla nostra redazione di Londra. alle 17:18 minuti. Vi ricordo che siete su Radio Tour The Moving Station. Facciamo una piccola pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. S-P-O-T. Spot. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and this is Tam Tam Europe, your daily dose of rock, broadcast three times a day, keeping you up to date with what's going on in the world of rock e non solo. E adesso che i New Radicals si sono sciolti, che fine ha fatto il cantante Greg Alexander? Dallo scioglimento si è impegnato a produrre altri artisti, compreso Daniele Briswold, l'ex backing singer dei New Radicals. Adesso arriva la notizia che ha collaborato sul nuovo singolo di Ronan Keating dei Boyzone. Alexander ha co-scritto e coprodotto Life is a Roller Coaster, La vita è una montagna russa, che farà parte del debut album come solista per Ronan Keating, il quale vede anche la partecipazione di Morris and Barry Gibb dai Bee Gees. Un spokesman per Keating dice: "The single sounds pretty good. We were all shocked when we found out Ronan and Greg were working together. It sounds more like the New Radicals than Boyzone. Very summery." Come sarà? A luglio sapremo. Someday we'll know. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un email, segnate questo indirizzo: fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavna è tutto. Vi lascio con i New Radicals e Someday We'll Know. Alla prossima. Tam Tam Europe. Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions, I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars? It's true love just once in a lifetime. Did the captain of the che state ascoltando su Radio Tour The Moving Station e che abbiamo ascoltato grazie alla proposta di Fergal e la nostra redazione di Londra. Facciamo una piccolissima pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. S-P-O-T. Spot. Radio Tour the Moving Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Cavanaugh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro, preparate dalla nostra redazione a Londra. Dall'Australia arriva la notizia delle strane iniziative di un giovane gruppo alla ricerca di un contratto discografico per insistere che le stazioni di radio ABC di Sydney mettessi un brano su in rotazione. I tre componenti del gruppo Navaggio si sono messo in campeggio fuori dallo studio dichiarando un sciopero della fame. Ammettono che questo serve per aiutare il loro profile, ma anche per convincere ai programmatori di ascoltare almeno un pezzo. Il cantante Ben Price spiega: "People used to be able to see bands live at most hotels, but now it's all poker machines, so airplay is now even more important than ever for the development of new Australian music." Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e da Fergal Cavanaugh vi lasciamo con un brano per Navaggio in Australia e loro idea esotica. Questo sono i Govinda e Exotica. Alla prossima. Tam Tam Europe. La propostina di Tanta Europa direttamente dalla nostra redazione di Londra. Alle 17:17 del pomeriggio siete su Radio Tour The Moving Station, siete qui a seguirci regia, ci sono io Jackie con voi fino alle 18. Facciamo una piccola pausa, tra poco la consegna del bacio in tour. S-P-O-T Spot. Radio Tour The Moving Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanaugh bringing you the best news in rock and non solo sul Tam Tam Europe. Tre pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E già sul Tam Tam Europe vi abbiamo parlato dei problemi delle stalkers, cioè le persone che seguono le celebrities dichiarando il loro amore e creando grandi problemi essendo fanatici. Arriva la notizia che un fan dei country singer Linda Ronstadt è stato arrestato a Tucson, Arizona, fuori di un concerto di Ronstadt. Il 55enne perseguitava la cantante di più di 3 anni e mentre la polizia lo portava via e gli urlava "La amo!" Ma queste non sono soltanto cose americane. Anche in Inghilterra, Nicole Appleton delle All Saints ha subito l'attenzione non voluta da un fan. Ha rivelato in un'intervista che continuava a ricevere chiamate sul cellulare, il cui numero lo sapevano soltanto i suoi genitori. Racconta: "It was really scary. Stavo guidando un giorno e una macchina tale quale alla mia mi ha tagliato la strada. Era lui e mi sono così arrabbiato che l'ho seguito. L'ho fatto fermare e gli ho detto, 'Don't you ever call me again.' Allora remember our website at www.radiotour.it. Dalla nostra news desk a Londra e da Fergal Cavana vi lascio con un brano per quelli che hanno subito un stalker. Dovunque vai, everywhere you go. Rock australiano dei Taxi Ride. Alla prossima. Tam Tam Euro. I could be a lover like that. Just give me all the things that you want now. Tell me the best thing I can do. You say you got a lot of good reasons. I know I told a lot of good lies now. I could lose everything for you. So if you're falling asleep and gotta wake up, say that it's us. I'll be the one to take you away from here. Cause everywhere you go, I'll come running. Everywhere you go, la proposta anche della nostra redazione di Londra, che salutiamo tutti quanti loro. Intanto vi ricordo che siete su Radio Tour, The Moving Station. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, ormai buon divertimento, buon inizio estate, tra pochissimo, e continuate ad ascoltare la nostra musica. Facciamo una piccola pausa, tra poco consegneremo un altro bacio in tour. S-P-O-T, spot. Tour, the movie station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, quelle di rock e oltre che vanno in onda tre volte al giorno. E polemica in casa dai Blink 182. Negli Stati Uniti, un 17enne studente del high school si è impiccato nel garage di casa sua, ascoltando il brano Adam Song di Blink 182. Il brano dell'album Enemy of the State dice quanto segue: sono troppo depresso per andare avanti, vi dispiacerà quando me ne sarò andato e non ho mai pensato che sarei morto da solo. Aspettiamo adesso che i Parents Resource Music Center, che da anni combatte il rock dai contenuti duri e violenti, inizi un'altra lotta. Già è successo lo scorso anno contro Marilyn Manson, quando si scoprì che i giovani assassini, che hanno massacrato a colpi d'arma da fuoco numerosi compagni e qualche insegnante prima di suicidarsi alla Columbine High School, erano devoti fan di Marilyn Manson. Se ci volete segnalare i gruppi da ascoltare, chiamateci allo 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Ciao Tam Tam Europe e da Fergal Cavana vi lasciamo con i Blink 182 and What's My Age Again. Alla prossima. Tam Tam Europe. Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of these Martinis. What the hell is in these? My friends say I should have my lunch. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home. Again, Blink 182 su Radio Tour The Moving Station, prima anche di Golai Charity con Are You Still Having Fun? E poi c'è stato Fergal della nostra redazione di Londra a curare un'altra pillola di Tam Tam Europe che tornerà domani intorno alle 17.10 sulla Radio Movimento. Piccolissima pausa, subito dopo c'è anche Britney Spears. S-P-O-T, Spot. Spizzante, originale, diverso dagli altri e divertente allo stesso tempo. E altre notizie su Dylan. Il re della Svezia gli ha consegnato il Polar Music Prize del Royal Swedish Academy of Music per l'influence che ha avuto sul sviluppo della musica popolare nel XX secolo. E bravo Bob Dylan, un artista che ha gestito la sua carriera proprio come voleva lui. Ciao Tam Tam Europe on Radio Tour The Moving Station, that's all for now. And remember our website www.radiotour.it. Ciao Fergal Cavana è tutto. Per il momento vi lasciamo con un brano per Bob Dylan. Questi sono i Blue Vertigo e Sono come sono. Alla prossima. Tam Tam Europe. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda 4 volte al giorno raccogliamo le notizie più belle nel mondo del rock e non solo. E oggi segnaliamo il video per Valve in Auto, il singolo del gruppo bergamasco Verdena, girato con un telecamera sulle schiene di un motociclista. Loro stessi lo descrivono delirante e fa un bel effetto mentre girano per le strade di una città. Infatti ad un certo punto esce una macchina della polizia che non doveva apparire nel video. Il brano è tratto dall'album omonimo ed è un bel collezione of slow ballads and steaming rock. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 2438 888. Questo è tutto per il momento, da Fergal Kavanagh vi lascio con Verdena e Valve in Auto. Ciao, alla prossima! Tam Tam Europe. Pillola di Sano Rock su Radio Tour The Moving Station alle 19:16. Io sono Luca Cecino Palumbo in regia e quello che abbiamo appena ascoltato è stato un altro progetto della nostra redazione di Londra. Fergal ci ha regalato un'altra emozione con Tam Tam Europe. Ci sarà Radio Tour The Moving Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and welcome to Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e oltre in onda 4 volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. Allora, vi abbiamo già parlato del polemica in casa degli Smashing Pumpkins, che la bassista Darcy Redsky se n'è andata, ma adesso che farà? Sembra che non avrà difficoltà. Infatti, prima di lasciare i Pumpkins, aveva già fatto l'ospite di onore nell'ultimo disco dei Filter, un gruppo americano di Chicago. L'album si intitola Filter, title of record, e il cantante dei Filter, Richard Patrick, ha promesso un disco molto vario, e cioè brani con chitarre esplosive, canzoni acustiche, robe tecnico, cose industriali e addirittura passaggi sinfonici. Allora, senz'altro, Darcy delle Smashing Pumpkins si è trovato a suo agio. Ciao Tam Tam Europe, questo è tutto per il momento. Vi invito a visitare il nostro website www.radiotour.it. Do Fergal Kavanagh è tutto, questo sono i Filter. Come take a picture. Alla prossima. Tam Tam Europe. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Benvenuti a Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno, raccogliamo le notizie preparate della nostra redazione di Londra e ve le proponiamo con rock e non solo. Abbiamo ricevuto una di quelle email a catena, di solito fastidiose, ma questa volta è così carina che volevamo dividerla con voi. Immaginate che ogni giorno in banca vi vengono accreditati $86,400, il credito però viene azzerato a mezzanotte. Che fate? Lo prelevate e lo spendete subito, no? Allora, voi avete questa banca, si chiama Tempo. Ogni giorno vi regalo un credito di 86.400 secondi che solo voi potete decidere come spendere e quale valore attribuirli. In che modo? Semplice. Se volete calcolare quanto vale un'ora, chiedetelo a due amanti che aspettano di incontrarsi. E quanto vale un minuto? Chiedetelo a qualcuno che ha perso il treno. E un secondo? Chiedetelo a chi ha appena evitato un incidente. E con questa riflessione vi lascio a Tam Tam Europe. Our website is at www.radiotour.it. Send me an email if there's anything you'd like to hear. Do Fergal Kavanagh tutto, vi lascio con gli Alma Magretta. Ore, minuti, secondi. Alla prossima. Tam Tam Europe. Thank you. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Well, the rock messing on the tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Abbiamo chiesto alle Skunk e Nancy se dopo il tentativo di Skin con la lingua italiana nel musical Rent a Milano avrebbe parlato italiano sul palco del Parlapartenope a Napoli. Ace, il chitarrista, ci racconta che Skin usa l'italiano che conosce lei per comunicare con i fan, e Cass, il bassista, ci racconta delle sue impressioni dell'italiano parlato dai napoletani. She uses what language she knows to address the crowd, you know, talk to the people in Italian. But it's a bit different down here, isn't it? Because we kind of learn most of our Italian language up in like Milan, because that's where we're the most. But I've heard that language down here changes a bit. Yeah, they change the endings here, don't they, in Napoli? So they leave off the as and the os, and they kind of... Yes, I was being educated on the language of Napoli today. Yes. Le voci di Ace e Cass di Skunk e Nancy, che ci raccontano come hanno imparato un po' di italiano a Milano, che è molto diverso dalla lingua parlata a Napoli, che fa cadere le A e le O finali. That's it for the moment from Fergal Kavanagh and Tam Tam Europe on Radio Tour, the moving station. Vi lascio con i Skunk e Nancy e Follow Me Down. Alla prossima. Tam Tam Europe. Una grande emozione per il nostro Fergal Kavanagh, la possibilità di poter sentire e ascoltare il concerto a Londra degli Skunk e Nancy, e non solo, ma anche poterlo intervistare. Mamma mia!